devi portare Africa, Asia o nel primo locale. Fammi vedere che cosa vuol dire partire davvero. Portami dove non posso arrivare, dove si smette qualsiasi pudore. Fammi sentire che cosa vuol dire viaggiare leggeri. Sei sempre così, il centro del mondo, il viaggio potente nel cuore del tempo, andata e ritorno. Portami ovunque, portami al mare, portami dove non serve sognare, chiedimi il cambio. Solo se devi, sei brava a guidare. E dopo portami oltre, che lo sai fare, dove sparisce qualsiasi confine. Fammi vedere che cosa vuol dire viaggiare col cuore. Sei sempre così, il centro del mondo, primo bengala sparato nel cielo. Quando mi perdo, sei sempre così, il centro del mondo. Ti prendi il mio tempo, ti prendi il mio spazio, ti prendi il mio portare Venere, Marte o altri locali. Fammi vedere che cosa succede a viaggiare davvero. Sempre così, il centro del mondo, il primo bengala sparato nel cielo. Quando mi perdo, sei sempre così, il centro del mondo. Ti prendi il mio tempo, ti prendi il mio spazio, ti prendi il mio meglio.